Avventurieri, di fronte a voi c'è un enorme forziere chiuso da due lucchetti magici. Il primo lucchetto è protetto da un incantesimo basato sulla scienza degli elementi, la chimica. Sulla serratura sono incisi i simboli di alcuni elementi tratti dalla tavola periodica. Per aprirlo dovrete riconoscere gli elementi e sommare i loro numeri atomici. Vi ricordo che il numero atomico di ciascun elemento all'interno di una molecola va moltiplicato per il numero di atomi presenti. Druido, consultando il tuo libro degli incantesimi naturali, ricordi che H è il simbolo dell'idrogeno, che ha numero atomico 1. O è il simbolo dell'ossigeno, che ha numero atomico 8. Na è il simbolo del sodio, che ha numero atomico 11. I è il simbolo dello iodio, che ha numero atomico 53. La combinazione del lucchetto sarà data da due numeri, ottenuti sommando i numeri atomici degli atomi presenti in ciascuna delle due molecole. La prima molecola è H2O, acqua formata da due atomi di idrogeno e uno di ossigeno. La seconda molecola è NaI, ioduro di sodio, estratto dalle alghe brune, formato da una molecola di sodio e una molecola di iodio. Qual è la somma dei numeri atomici all'interno di ciascuna molecola e quindi il codice del lucchetto?